Sono le 13. GR24, il sole 24 ore, edizione extra large. La mafia può approfittare della crisi, l'allarme di Napolitano. Il metro solo per i milanesi offende la Costituzione, l'alto là di fine alla Lega. Seconda giornata in Germania per Marchionne, tempi brevi per un piano Opel, chiedono da Berlino. Tra le tensioni col mondo arabo e le attese di Israele, Benedetto XVI inizia il suo viaggio in Terra Santa, prima tappa la Giordania. È morto Gianni Budget Bozzo, una vita divisa tra chiesa e politica. Gira armato e la pistola la porta anche negli uffici del Consiglio regionale, che male c'è o il porto d'armi, si difende del presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia. GR Extra Large, buongiorno da Alessio Maurizi. Buongiorno da Anna Migliorati. La cooperazione internazionale è da privilegiare anche nel contrasto all'immigrazione clandestina e alla criminalità straniera sul territorio nazionale che rischiano di ingenerare una diffusa percezione di insicurezza e anche preoccupanti fenomeni di intolleranza. Parole queste pronunciate oggi dal capo dello Stato Giorgio Napolitano nel messaggio inviato in occasione della festa della polizia. Parole ovviamente che fanno ancora discutere sulla questione del rimpatrio in Libia e inviate da Napolitano, che alla festa della polizia ha partecipato proprio a fianco del ministro dell'interno Maroni. E dal capo dello Stato è arrivato anche un altro monito che riguarda la crisi. Sentiamo allora com'è andata questa mattina. L'occasione è il 157esimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato. Il ministro degli interni fa il bilancio di un lavoro iniziato un anno fa, l'impegno per garantire le risorse necessarie alle forze dell'ordine, gli sforzi compiuti sul campo per assicurare la giustizia latitanti e criminali e la costante attenzione sul fronte dell'immigrazione clandestina. Roberto Maroni ha voluto rispondere a tutte le critiche piovute sull'operato del governo dopo aver ricondotto in Libia i clandestini alla deriva nel canale di Sicilia. La vita delle persone che disperatamente cercano di sottrarsi alla miseria o alla guerra viene per noi prima di ogni altra considerazione. Parallelamente alla doverosa azione di soccorso è stata anche intensificata la collaborazione con i paesi rivieraschi e l'operazione condotta ieri di concerto tra l'Italia e le autorità libiche che ha consentito per la prima volta il respingimento diretto in Libia dei clandestini che si trovavano in acque internazionali, conferma l'avvio di una nuova fase nel contrasto all'immigrazione illegale che origina dal continente africano. Presente anche il capo dello Stato, che ha ringraziato a nome della nazione le donne e gli uomini quotidianamente impegnati per l'affermazione della legalità e per garantire la sicurezza dei cittadini. Napolitano ha sottolineato i brillanti risultati conseguiti nell'ultimo anno, straordinari quelli nella lotta alla criminalità organizzata, ma il livello di attenzione, ha osservato il presidente, dovrà essere mantenuto sempre alto perché esiste il rischio che le organizzazioni di stampo mafioso possano approfittare della crisi per acquisire il controllo di aziende in difficoltà. Valeria De Rosa, GR24, il sole 24 ore. E a far discutere sempre in tema di immigrazione la proposta del leghista lombardo Matteo Salvini di riservare alcuni vagoni della metropolitana alle donne e ai milanesi. Offende le persone la Costituzione a prescindere dalla razza, dalla lingua e dalla religione. Sono le parole del presidente della Camera Gianfranco Fini questa mattina durante un incontro alla Fiera Campionaria con alcuni studenti milanesi in risposta evidentemente alla proposta della Lega. Basta leggere la Costituzione, ha detto Fini, per capire che proposte come quella non si fanno. La maratona dell'amministratore delegato della Fiat Sergio Marchionne per la conquista della Opel ora, oggi seconda tappa in Germania e noi andiamo da Beda Romano. Buongiorno Beda. Buongiorno. Allora, appena finito il primo dei tre incontri della giornata. Ma ne ha terminati in realtà, mi sembra, due. Già due. Perché ha incontrato questa mattina Roland Koch, ministro presidente dell'Assia, che è la regione in cui sede lo stabilimento più grande della Opel, quello di Rüsselsheim, che ha 16.000 dipendenti, e poi ha incontrato anche Kurt Beck, ministro presidente della Renania-Palatinato, Land, dove invece ha sede una fabbrica, un'altra fabbrica di Opel, quella di Kaiserslautern. L'unico documento ufficiale pubblicato finora dopo questi due incontri è un comunicato stampa della regione dell'Assia dove il ministro presidente, che è un democristiano, Roland Koch, ha accolto positivamente naturalmente l'interesse di Fiat per Opel, ma ha, come al solito in queste circostanze, è rimasto molto diplomatico e ha ribadito che sono importanti in questa circostanza almeno tre criteri. Dice che un'offerta deve esserci, deve essere la più chiara possibile, e anzi esortato la Fiat a farla. Ha detto che saranno importanti tre cose: valutare la solidità dell'azienda, il mantenimento di quanti più posti di lavoro possibili e il minore aggravio possibile sulle casse pubbliche. Questi tre criteri di Roland Koch, e temo che saranno fondamentalmente gli stessi criteri che applicheranno anche le altre regioni tedesche coinvolte da un'eventuale fusione. Beda, anche lì si parla di stabilimenti a rischio, cioè un po' la corsa a capire quali potrebbero essere. Assolutamente. La stampa tedesca, peraltro, è stata quella che ha pubblicato per prima alcuni dei potenziali piani di una fusione Opel-Fiat. In pericolo in Germania vi sarebbe in particolare lo stabilimento di Kaiserslautern, quello in Renania-Palatinato, che produce motori e che dà lavoro a circa 2.300 dipendenti. Ma non dimentichiamo che la Opel conta 50.000 dipendenti in Europa, di cui 25.000 in Germania. Conta 10 stabilimenti in Europa, di cui 4 in Germania. Quindi è evidente che se ristrutturazione deve esserci, la Germania non potrà non pagarne le spese, ed è il grande timore della classe politica tedesca. Grazie Beda Romano per questi aggiornamenti che riguardano la missione che prosegue di Marchionne in Germania per chiudere l'operazione, se sarà possibile, anche solo per fare un'offerta che riguarda la fusione con la Opel. E tanto male i conti di un'altra casa automobilistica storica. Parliamo della giapponese Toyota, che ha chiuso l'esercizio 2008-2009 in rosso. La perdita è stata di 436 miliardi di yen, pari a 3,3 miliardi di euro. E sembra davvero che siamo costretti a parlare quanto mai bene dei marchi italiani alla conquista del mondo, perché oltre alla Fiat c'è un altro marchio italianissimo e anch'esso piemontese che ha ottenuto un riconoscimento: è il più affidabile al mondo. Il marchio più affidabile con la miglior reputazione del mondo non è la nordica IKEA o la profumata Johnson & Johnson, oppure la fantasiosa Walt Disney. Un gusto genuino per una merenda sicura. Oggi la spalmo su una michetta e io sullo sfilatino. A merenda cambiano il pane, ma sopra vogliono spalmare sempre la loro Nutella. Eh sì, è la Dolce Ferrero. Il riconoscimento al gruppo piemontese arriva dall'inchiesta annuale del Reputation Institute. In pratica, se in tempi di crisi i produttori di beni di lusso pagano dazio, le persone continuano ancora ad amare il cioccolato. Nutella e Ferrero Rocher su tutti. Ah, i famosi Rocher. Ci vizia sempre con Rocher. L'indice si basa su fiducia, rispetto e stima, ma anche innovazione e qualità percepite da un campione di 60.000 persone in 32 paesi. La carica del caffè più l'energia del cioccolato. Se tra le nazioni che spiccano ci sono Germania e Francia, che però solo con un'azienda entra nelle prime 50, tra le italiane ci sono Pirelli al 90° posto, Eni al 117° e Coppa al 120°, sopra marchi di spicco come Sony, Fuji e la svizzera Nestlé. Insomma, alla faccia del cioccolato svizzero. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore. È morto a 84 anni Giovanni Baget Bozzo, è morto a Genova, il sacerdote che è stato impegnato politicamente per lungo tempo, prima con la Democrazia Cristiana, poi con il Partito Socialista e quindi in tempi più recenti con Forza Italia. Un uomo diviso tra politica e religione, il commento di Piero Ignazzi. Una figura molto particolare, eccentrica, con una vicenda personale e politica di primo piano nella vita culturale e politica italiana. Arrivato tardi al sacerdozio, ha poi avuto un ruolo diretto nelle vicende politiche della Democrazia Cristiana prima, del Partito Socialista poi, a partire dagli anni 80 e infine più recentemente con Forza Italia. una figura intellettuale di primo piano, molto originale, con posizioni estremamente eterodosse che l'hanno posto spesso in conflitto anche con le gerarchie ecclesiastiche. Proprio per la sua originalità e peculiarità di pensiero, probabilmente non avrà un seguito degno della sua riflessione, perché tutto sommato, pur essendosi legato a partiti importanti, avendo giocato anche un ruolo di un certo peso nel dare indicazioni, consigli, nel suo ruolo di consigliere, diciamo, politico ideologico, tutto sommato le sue visioni e le sue interpretazioni sono così peculiari e così originali che difficilmente potranno trovare qualcuno che segua quelle orme. Le posizioni di base svolto non riguardavano tanto il problema della religione, il problema del ruolo della religione nella vita pubblica, solo nell'ultimo periodo direi questo è entrato in maniera più significativa. Da questo punto di vista Metis Bozzo era, diciamo, un pensatore, un intellettuale e anche un uomo politico vicino comunque alla politica, che guardava, diciamo, a tutti i problemi senza concentrarsi nello specifico della questione religiosa, della questione cattolica in particolare. Compie 100 anni e domani torna il Giro d'Italia. Oh, quanta strada nei miei sandali, quanta ne avrà fatta Bartali. Oh, quanta strada nei suoi sandali ha fatto questo Giro d'Italia che compie 100 anni partendo domani dal Lido di Venezia. Ne ha fatta tanta, perché quel lontano 1909 con quegli strani tipi in bicicletta che partono da una piazza Loreto, famosa per ben altre vicende, sono lontano davvero un secolo. A noi piace il Giro perché ricorda sempre un'Italia che si rimette in moto, come fece dopo la guerra con Coppi e Bartali e un terzo uomo chiamato Magni che ancora adesso sprizza l'ottimismo di un ragazzino. Il Giro, andando avanti, ci fa tornare indietro, ma quel mondo romantico, rassegniamoci, non c'è più. Farà piacere un bel mazzo di rose e anche il rumore che fa il cielo fa, ma una birra fa gola di più in questo giorno appiccicoso di caucciù. Ora si pedala a 60 all'ora, affusolati come missili, e con l'eterna sfida tra doping e antidoping che diventa corsa nella corsa, un guardia ladri senza intervallo. E allora basta con queste malinconie in bianco nero e godiamoci il presente di un Giro fatto per stupire, con le Dolomiti quasi alla partenza e i fori imperiali all'arrivo il 31 maggio. In mezzo anche le tormentate strade d'Abruzzo e la campagna flagellata dalla camorra. Si va in bicicletta sperando in basso in Cunego, ma l'Italia sullo sfondo riesce sempre a stupirci. Dobbiamo andare al cinema, vai al cinema, vacci tu! Zazzarazzaz, zazzarazzaz! Dario Ceccarelli, GR24, Il Sole 24 Ore. 13:16. E nella prima parte di Extra Large abbiamo parlato dell'appello di Napolitano. La criminalità potrebbe assumere il controllo delle aziende che sono in difficoltà per via della crisi. Le parole del Capo dello Stato in occasione della cerimonia per la festa della polizia. E poi la risposta del Presidente della Camera Fini alla proposta della Lega. Il metrò riservato ai milanesi, ha detto Fini, è una proposta che offende la Costituzione. Ci siamo occupati anche della missione di Sergio Marchionne, amministratore delegato di Fiat in Germania, prosegue, seconda visita in una settimana, tempi brevi per un piano, chiedono da Berlino. E poi, tra poco ne parleremo più dettagliatamente, le tensioni nel mondo arabo alla vigilia della visita in Terra Santa. Oggi il Papa sta atterrando proprio in questi minuti in Giordania. Dal capo dello Stato Giorgio Napolitano alla festa della polizia sono arrivate anche altre parole. La cooperazione internazionale da privilegiare anche nel contrasto dell'immigrazione clandestina, ha detto. Fatto sta che il ministro Maroni ha parlato ieri di svolta storica. L'ONU ha detto invece che è stato violato il diritto internazionale per quanto riguarda il diritto d'asilo. I clandestini che viaggiavano su 3 barconi nel canale di Sicilia sono stati tutti riportati in Libia. E il punto è proprio quello che riguarda l'obbligo, secondo le convenzioni internazionali, di aprire le frontiere ai richiedenti il diritto d'asilo. Paola Cavadi ne ha parlato con Laura Boldrini, portavoce dell'Alto Commissario per i Rifugiati delle Nazioni Unite in Italia e nel Mediterraneo. Sentiamo. È successo qualcosa di inedito, di nuovo, cioè che 3 barche in difficoltà che si trovavano in acque SAR maltesi sono state soccorse da motovedette italiane e invece di essere portate come d'abitudine in uno di questi due paesi sono state portate in Libia. Ora, senza che queste persone abbiano potuto esprimere un bisogno di protezione o accedere a una procedura d'asilo. Esiste un principio che impone ai paesi della comunità internazionale di non respingere in casi come questi le navi cariche di immigrati? Il principio fondamentale del diritto internazionale dei rifugiati e della Convenzione di Ginevra si basa sul non respingimento. Il non respingimento dei richiedenti asilo, il non refoulement. Quindi questa è la base del diritto internazionale dei rifugiati. Che cosa vuol dire? Che se c'è una persona richiedente asilo, rifugiato, che chiede protezione, non può essere respinta indietro. Sembrerebbe che il ministro Maroni non voglia tener presente le regole del diritto internazionale dei rifugiati. Nel 2005 la Corte Europea dei Diritti Umani ha condannato l'Italia per un fatto simile. Quello era un respingimento, perché quando vennero mandati da Lampedusa migranti che non erano stati adeguatamente identificati e con dei respingimenti che vennero definiti collettivi, vennero rimandati in Libia, ma questi non erano libici, quindi anche in quel caso fu un respingimento in Libia di persone di altre nazionalità alle quali non era stata data la possibilità di fare domanda d'asilo. L'alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati ha parlato di un radicale e preoccupante mutamento nelle politiche migratorie del governo italiano. Le condivide questa preoccupazione? Beh, assolutamente sì. Quanto accaduto ieri sembra essere veramente un cambiamento a 360 gradi, un cambiamento che però rischia di andare in rotta di collisione con il diritto d'asilo. Veniamo adesso alle condizioni che aspettano queste persone in Libia. Voi conoscete la situazione reale sul campo? Noi siamo presenti in Libia da un po' di anni con un ufficio che però ha delle reali limitazioni rispetto all'accesso alle persone che si trovano in Libia, ai migranti, ai richiedenti asilo che sono tenuti in detenzione. Abbiamo accesso a un solo centro, quello di Misurata, per cui per noi non è semplice riuscire anche a assistere queste persone e anche a vedere i loro casi, perché non c'è la possibilità di svolgere la nostra attività a pieno e quindi anche per questo noi siamo preoccupati, perché in passato poi dalla Libia sono stati rimandati nei paesi di origine persone perseguitate di cui poi si sono perse le tracce. È possibile che a bordo fossero presenti anche bambini? Normalmente ci sono donne, ci sono anche minori e anche minori non accompagnati. Ora noi non sappiamo adesso se in questo caso ci sono minori non accompagnati, questo non so dirglielo, però comunque è legittimo porsi questo quesito. E così Laura Boldrini, portavoce dell'Alto Commissariato per i Rifugiati dell'ONU in Italia e nel Mediterraneo. Divise su chi deve soccorrere i clandestini in mare, di certo Italia e Malta sono d'accordo su un punto. La questione dell'immigrazione clandestina del Mediterraneo si risolve partendo dai rapporti con la Libia. Questa mattina ospite Radio 24 a dirlo è stato il ministro degli interni di Malta, Masfoud Bonnici. Non è più accettabile di vedere persone con queste barche che rischiano la vita di attraversare il Mediterraneo e siamo passivi a questo grande dilemma, a questo grande dramma. La Convenzione di Ginevra stabilisce che prima bisogna accertare se qualcuno ha diritto allo status di rifugiato politico o di profugo. Lei dice facciamolo in Libia questo accertamento? Naturale, naturale. Questa è la via di prendere. Noi dobbiamo fare del nostro meglio per dare alla Libia tutto quello che ha bisogno per poter essere in una posizione di entrare pure a far parte delle condizioni di Ginevra. La Libia va aiutata. Questa idea che con la Libia non si può collaborare o con la Libia è un dialogo che non si parte è completamente sbagliato. Questo è il ministro degli interni di Malta. Adesso invece torniamo in Italia, in particolare in Sicilia, per una notizia di cronaca. 24 persone, tra le quali l'ex presidente della regione Salvatore Cuffaro e il suo successore Raffaele Lombardo e anche 20 giornalisti dell'ufficio stampa, sono tutti iscritti nel registro degli indagati della Procura di Palermo. Sentiamo perché da Gian Piero Casagni. Il presidente della regione siciliana Raffaele Lombardo, l'ex governatore dell'isola Salvatore Cuffaro e il capo dell'ufficio legislativo e legale della regione sono indagati dalla procura di Palermo per abuso d'ufficio. Nell'inchiesta, che vede coinvolte complessivamente 24 persone, sono indagati anche i giornalisti dell'ufficio stampa della presidenza della regione. Quattro di loro hanno già ricevuto avviso di garanzia, nei quali si ipotizza il reato di concorso in abuso d'ufficio e saranno interrogati nei prossimi giorni. La vicenda riguarda le nomine dei giornalisti con la qualifica di capo redattore nell'ufficio stampa della presidenza, contro le quali sono state presentate denunce da alcuni degli esclusi. Della vicenda si sta occupando anche la procura della Corte dei Conti, che ipotizza un danno erariale di circa 4 milioni di euro. E così in Sicilia voltiamo pagina. La crisi economica è ancora presente nelle banche americane. Dagli stress test condotti dalla Casa Bianca sui 19 principali istituti finanziari degli Stati Uniti è emerso che 10 di questi hanno bisogno di un ammontare complessivo pari a 74,6 miliardi di dollari in nuovi capitali. 19 istituzioni finanziarie americane, le più importanti sotto esame, e il Tesoro le ha divise in buone e cattive. Lo stress test famoso, celebre, di cui si parla ormai da tanto tempo, prevede che 10 banche non vadano troppo bene e abbiano bisogno di una forte ricapitalizzazione, le altre 9 invece sono uscite indenni. La più importante, quella che richiederà più denaro, è la Bank of America, 34 miliardi di dollari. Complessivamente ci vorrà una ricapitalizzazione di 75 miliardi di dollari per far sì che anche queste banche più deboli possano essere in grado di sostenere una nuova ondata, nel caso ci fosse, negativa sul fronte economico e su quello del mercato. Fra le banche che non sono andate troppo bene, Citi, 5 miliardi di dollari di aumento, Wells Fargo 13,7, GMAC 11, Fifth Third, una piccolina, una banca del sud, 1,1, Morgan Stanley, prestigiosa, 1,8 miliardi di aumento. Fra quelle che invece sono andate bene, JP Morgan Chase, Goldman Sachs, American Express, State Street, MetLife, Bank of New York e così via. Nessuna di queste banche avrà bisogno di aumentare il proprio capitale. A questo punto ci sarà tempo fino a giugno per le banche che dovranno procedere con gli aumenti per organizzare un piano e fino a novembre per procedere con gli aumenti di capitale. La borsa ha reagito tiepidamente, le cifre confermavano un po' le aspettative, ma come sempre succede c'è stato un realizzo di profitti, anche perché un'asta del Tesoro non è andata così bene come ci si aspettava. Mario Platero, GR24, Il Sole 24 Ore, New York. 13 e 32 minuti a GR24 Extra Large con le notizie di oggi. La mafia può approfittare della crisi e prendere il controllo delle aziende in difficoltà, e l'allarme lanciato oggi dal capo dello Stato Napolitano. Il metro solo per i milanesi offende la Costituzione, l'alto là questa mattina di Fini alla proposta della Lega. Seconda giornata in Germania per Marchionne, tempi brevi per un piano di fusione con la Opel, chiedono da Berlino. Tra le tensioni col mondo arabo e le attese di Israele, Benedetto XVI inizia il suo viaggio in Terra Santa. Un istante fa è atterrato l'aereo in Giordania. Sono qui per soluzioni ragionevoli per la pace, dice Benedetto XVI. È morto Gianni Baget Bozzo, una vita divisa tra chiesa e politica. Gira armato e la pistola alla porta anche negli uffici del Consiglio regionale. Che male c'è, o il porto d'armi, si difende il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia. E allora, le immagini che stiamo vedendo proprio in questi istanti in diretta sui circuiti internazionali, anche su Sky, sono quelle del Papa che sta scendendo dalle scalette dell'aereo che l'ha portato ad Amman in Giordania, prima tappa della sua visita in Medio Oriente. In questo momento proprio la stretta di mano con Re Abdallah e la principessa Rania di Giordania. Tu, Anna, poco fa hai letto le prime dichiarazioni che il Papa ha fatto a bordo dell'aereo. E a bordo dell'aereo è ancora in questi minuti il nostro Carlo Marroni. Carlo. Sì, stiamo scendendo anche noi dalla scaletta. Noi stiamo vedendo il Papa, ecco, sì, anche i giornalisti al seguito, siete proprio dietro di lui. Siamo proprio dietro di lui, siamo atterrati un minuto fa, scortati sopra il territorio giordano da due F-16 dell'aviazione appunto della Giordania. Il Papa in aereo ha parlato questa mattina, il messaggio principale di pace, riconciliazione in tutto il Medio Oriente, dialogo interreligioso con musulmani ed ebrei, ha esortato i cristiani in Terra Santa, per lo più perseguitati o sempre in minoranza, a rimanere stretti alla loro terra. Oggi il Papa avrà ancora degli incontri dove parlerà probabilmente appunto di libertà religiosa e di pace, e per ora da mano è tutto. Carlo, dicevamo, interreligioso sicuramente. Noi stiamo guardando le immagini, ti abbiamo visto scendere dalla scaletta in questo momento. Ad attendere il Papa c'era un vescovo cattolico, c'era un arabo e c'era un ortodosso, ho visto bene? Esattamente, ci sono tutti i rappresentanti delle tre religioni monoteiste che appunto in questa parte del mondo sono nate, e in particolare c'è il patriarca latino di Gerusalemme, Monsignor Tual, che è la massima autorità appunto cattolica dell'area, quello che garantisce l'unità dell'azione della Chiesa cattolica sul territorio, ma appunto ci sono anche altri. Carlo, che attese ci sono dalle tre grandi religioni per questa visita del Papa? Con gli ebrei siamo in un periodo di dialogo tra gli ebrei molto difficile, soprattutto negli mesi dopo il caso dei Lefebvriani, il caso Williamson è quello che ha segnato un po', diciamo così, la crisi tra ebrei e cattolici cristiani. Questa visita però è stata fortemente voluta, anche superando questi problemi, proprio per riportare un dialogo su terreni proprio più religiosi e meno politici. Ricordiamo che il Papa aveva criticato, il Papa non direttamente, ma insomma la Chiesa Cattolica, l'attacco israeliano a Gaza di gennaio, e quindi diciamo così è un periodo questo che è stato di crisi, però probabilmente il messaggio che arriverà davanti al muro del pianto sarà un messaggio di grande ricordo, lo stesso che probabilmente avverrà domani, dopodomani, nella grande moschea qui di Amman. Vediamo male o c'è un forte vento? Pronto? Vediamo male o c'è un forte vento? Anche per questo che forse la comunicazione non è facilissima, Carlo. Pronto? Abbiamo perso il nostro Carlo Marroni, dicevamo, all'aeroporto di Amman in Giordania, appena atterrato. Papa Benedetto XVI va avanti intanto la cerimonia per accoglierlo, e così comincia il viaggio di 5 giorni in Terra Santa. E anche noi andiamo avanti un po' a spanne, perché questo arrivo ci ha un po' spiazzato in questi minuti proprio. Fra l'altro stavamo cercando di raggiungere un ospite, l'avevamo annunciato, uno dei padri custodi della Terra Santa, i padri francescani, che come sapete hanno l'incarico di custodire la Terra Santa, e sarebbe stato un interlocutore per cercare di inquadrare il viaggio del Papa in Medio Oriente, però ci sono difficoltà sulla linea. Andiamo avanti e salutiamo Giulia Crivelli, buongiorno. Buongiorno. Come sempre per accompagnarci sulle pagine giornali stranieri. Oggi, Giulia, partiamo da dove partiamo? Dalla Gran Bretagna? Sì, insomma, la casta ha i suoi guai ovunque, le varie caste dei vari paesi. In questo caso è appunto la Gran Bretagna, il Guardian. Devo dire, un po' come tutti i giornali britannici in questo momento, sta facendo veramente le pulci alle spese così pubbliche. L'Independent ieri, anche oggi, se la prende con le spese fatte per il G20. Invece il Guardian parla proprio dei ministri del governo di Gordon Brown. Secondo, tra l'altro, Gordon Brown cerca di difendere il loro budget, però siccome le spese sono rigorosamente pubbliche, le spese dei vari ministri, dei singoli ministeri, ma anche delle persone, e queste liste sono state pubblicate dal Guardian, e c'è naturalmente una grande indignazione, perché se già forse sono cifre che indignano quando si sta meglio, quando poi c'è una crisi economica la differenza è ancora più così, più palese, e perciò grande rancore generale per queste differenze dei soliti privilegiati. Giulia, abbiamo parlato molto in questi giorni e anche oggi di immigrati, abbiamo parlato poco fa anche delle tre grandi religioni che si incrociano in questo viaggio del Papa in Giordania, e il Paese oggi dedica una pagina a tutto questo. Sì, molto interessante. Naturalmente sappiamo anche la Spagna ha grossissimi problemi di immigrazione dall'Africa, ma anche da molti altri paesi, soprattutto dall'Africa però, e come tutti i paesi europei sta cercando di trovare una via di mezzo tra le richieste, soprattutto che vengono da chi scappa da paesi dove viene perseguitato, e il bisogno di comunque di chiudere le frontiere a un certo punto. E ci sono tantissimi approcci a questa questione. El País, che è un giornale di sinistra vicino al governo Zapatero, che ancora una volta si dibatte tra fare la cosa giusta così dal punto di vista umanitario e quella però anche sostenibile dalla Spagna, spiega che i musulmani, forse contrariamente a quanto pensiamo, sono meglio integrati negli Stati Uniti che in Europa in questo momento. Sappiamo quanti problemi sono nati negli Stati Uniti dopo l'11 settembre, chi è stato in America magari nel 2002 notava che i musulmani tendevano quasi a nascondersi, però nonostante tutto, se poi si vanno a guardare le reazioni dei sondaggi quando si chiede alle persone se si tollerano questi immigrati musulmani, se creano dei problemi, alla fine le reazioni più di paura, giustificata o ingiustificata, ci sono in Germania, Regno Unito, Francia, e invece quelle di maggior tolleranza, maggior apertura, che fanno ben sperare per un'integrazione, sono quelle del Canada e degli Stati Uniti. Quindi forse ancora una volta sul fatto del melting pot, comunque dell'aprire le proprie frontiere, abbiamo da imparare dagli Stati Uniti. Giulia, c'è un'altra notizia che è un po' più frivola, però in realtà stiamo parlando ancora una volta con un altro taglio. Potremmo di crisi imparare anche di questo, economica. Sì, è il magazine del Wall Street Journal, questo trimestrale che ha fatto tanto parlare di sé, è un magazine patinato con un formato molto strano, un quadrato, molto, devo dire, bello da leggere. L'articolo di uno degli articoli dell'edizione che viene allegata oggi al Wall Street Journal riguarda i saldi, perché sappiamo quanto nella passata stagione siano stati anticipati e soprattutto abbiano raggiunto delle percentuali di sconti incredibili. Gli americani ci erano già più abituati, noi europei e in particolare italiani eravamo abituati a avere quelle 3 settimane di saldo che iniziavano un certo giorno. Secondo il Wall Street Journal non sarà mai più così. Questa abitudine americana di avere la cosiddetta liberalizzazione dei saldi ha contagiato l'Europa, naturalmente per motivi congiunturali. I negozi vogliono svuotarsi, e c'è stata una crisi dei consumi, quindi hanno venduto di meno, ma diventa una cosa strutturale, quindi si va verso il saldo. I saldi perenne. Sempre. Grazie a Giulia Crivelli. Una giornata un po' difficile per quanto riguarda i tempi. Vi avevamo annunciato anche il Consiglio dei Ministri. Sono un po' in ritardo i lavori a Palazzo Chigi, ma noi cerchiamo comunque di capire cosa sta succedendo con Vincenzo Miglietta. Buongiorno Vincenzo. Sì, buongiorno. Anche perché, Vincenzo, diciamolo, oggi è un anno dal insediamento del governo Berlusconi e quindi è anche una giornata un po' particolare. È assolutamente così, e possiamo dire che questo primo anniversario è contraddistinto da un mini rimpasto proprio nell'esecutivo, che di fatto però non muta il numero totale dei componenti del governo. Ricordiamo che vi è la nomina di un nuovo ministro e di 5 nuovi viceministri, e poi vi è la relazione sulla situazione economica del paese per il 2008. Michela Vittoria Brambilla, attualmente sottosegretaria welfare con delega per il turismo, diventerebbe ministro senza portafogli, e poi Paolo Romani alle comunicazioni, Adolfo Urso al commercio con l'estero, Roberto Castelli alle infrastrutture, Giuseppe Vegas all'economia, Ferruccio Fazio alla sanità. Da sottosegretari passerebbero a viceministri. Berlusconi avrebbe motivato la nuova composizione del governo con la necessità che i viceministri possano confrontarsi al meglio con i loro omologhi di altri paesi. Il numero dei componenti, come dicevamo, dell'esecutivo resta invariato a 61. Da ricordare poi che il CIPE di questa mattina ha approvato il piano nazionale per l'edilizia abitativa, che blocca un primo stanziamento per complessivi 350 milioni di euro. Viene visto questa azione come un primo passo verso il piano casa. E da Roma è tutto. Grazie Vincenzo Miglietta. 13:43 minuti, tiriamo un po' il fiato, sentiamo i consigli del nostro gastronauta Davide Paolini. Mezzogiorno di Cuoco oggi non vi consiglia un locale, un ristorante, un wine bar, bensì un modo di mangiare. Un bel gelato di frutta, soprattutto di frutta, seguito da altrettanta frutta. È un pasto che molti nutrizionisti ritengono sufficiente per arrivare a sera, non è pesante e sicuramente vi permette di trascorrere una buona giornata. È evidente che il gelato deve essere di ottima qualità, e non lasciatevi così ingannare dalla scritta artigianale. Molte volte quella gelateria è tutto meno che artigianale, anche perché ancora purtroppo in Italia non esiste un disciplinare per dare tale qualifica. Quindi guardate un secondo se esiste un laboratorio, guardate i colori, non devono essere molto accesi del gelato, e poi appunto prendetevi un bel cono, una bella vaschetta, a seguire un buon piatto di frutta. Buon appetito! 13:46, torniamo con GR24 Extra Large. La Chiesa e il Papa appoggiano posizioni realmente ragionevoli per il processo di pace in Medio Oriente. Queste le primissime parole di Papa Benedetto XVI dette sull'aereo che lo ha portato ad Amman in Giordania. Di questo abbiamo parlato abbondantemente nella prima parte di Extra Large. Ci siamo occupati anche dell'appello del capo dello Stato Giorgio Napolitano che riguarda la crisi. La mafia può approfittare della crisi e prendere il controllo delle aziende in difficoltà, detto Napolitano. E poi la risposta del presidente della Camera Fini alla proposta della Lega, il metro solo per i milanesi, ha detto Fini, è una cosa che offende la Costituzione. Abbiamo parlato brevemente anche della visita di Marchionne in Germania. Prosegue il tentativo della Fiat di chiudere l'operazione con la Opel. Porto d'armi e gira armato, ma la pistola la porta anche in consiglio regionale, o meglio, lui dice mai in aula. Il presidente del consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Edward Ballaman della Lega, che è in diretta con noi, buongiorno. Buongiorno a voi. Presidente, è vera la notizia di stampa? Lei va armato nel palazzo del consiglio regionale? Guardi, lei mi ricorda un periodo purtroppo molto triste e molto difficile di qualche anno fa, quando purtroppo ho subito la perdita di due amici e io sono stato messo sotto scorta dalla polizia per due anni. Dopodiché la stessa polizia mi hanno insegnato tante cose, tante attenzioni, tante premure, va bene, per essere più tranquilli, fra cui anche l'uso della pistola, che porto ormai da 4 anni, anche a seguito del fatto di non essere più sotto scorta, ovviamente. Quindi è ancora questo il motivo, perché insomma c'è da chiedersi come mai, da cosa si debba difendere una persona che frequenta i luoghi pubblici, un politico, un esponente del consiglio regionale, insomma qualche critica è naturale che le venga rivolta, non crede? No, io non penso che ci possano essere ragioni, perché di fatto io, come tanti cittadini che per il proprio lavoro sono costretti a girare armati contro la loro, sì, contro il loro desiderio, perché francamente non le dico, io purtroppo ho avuto due amici che sono stati assassinati e purtroppo questa mia attività, che è stata quella di far conoscere il film di Theo van Gogh, quegli 11 minuti di documentario dal titolo Submission, mi hanno messo, senza che io neanche lo sapessi, perché di fatto è stata proprio la Digos che da un momento all'altro ha deciso che io dovevo essere sotto scorta. E per informazioni che aveva ricevuto da attività investigativa nell'ambito degli estremisti islamici. Da allora praticamente io ogni anno sono informato su quelle che sono le attività e io ogni anno faccio la richiesta del porto d'armi e fino adesso mi è sempre stato concesso proprio per la mia posizione. Senta, quindi... qual è stato il dialogo che lei ha avuto con la polizia, quali sono state le indicazioni che le sono state date, sono anche cose naturalmente private, ma non dovrebbe essere proprio la polizia a proteggerla, a pensare alla sua protezione, non è questo il ruolo delle forze dell'ordine? In effetti è quello che hanno fatto, io li ringrazio sempre in ogni occasione, perché per due anni ho vissuto fianco a fianco con loro, non di certo perché ero parlamentare, perché ho fatto per 12 anni parlamentare, solo diciamo la parte finale dove ho svolto questa attività ero stato reputato a rischio e li devo ringraziare perché hanno fatto un lavoro molto molto importante. Dopodiché Io non ho avuto più un incarico a livello nazionale, però comunque lei mi insegna, purtroppo in certi ambienti non basta smettere di fare determinata attività. Lei sa benissimo che purtroppo l'estremismo islamico che ha ucciso, ribadisco, Theo van Gogh, non è solito dimenticare facilmente certe cose, per cui io comunque di quella che è la mia attività politica, di quella che è la mia attività soprattutto negli incontri, faccio sempre menzione alla Digos, con cui ho un contatto continuo. Va bene, grazie. Allora, queste sono le spiegazioni del Presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Edoardo Balaman della Lega, che ci ha spiegato il perché anche di questa notizia che oggi aveva destato un po' di curiosità, un po' di scalpore forse anche. Grazie per essere stato con noi. Poterlo spiegare. Dopo quasi 30.000 verifiche, un edificio su due all'Aquila risulta agibile, uno su quattro dovrà essere completamente ricostruito. Nel pomeriggio il Presidente del Consiglio Berlusconi tornerà nelle zone colpite dal terremoto. All'Aquila salutiamo Stefano Totoro. C'è un problema? Qualche problema? Allora, andiamo invece in Giordania, perché dicevamo è arrivato Papa Benedetto XVI, adesso c'è in corso la conferenza stampa in televisione del re Abdullah di Giordania. Vediamo se... vediamo di cercare di capire qualche parola. E quindi sappiamo che comunque dobbiamo rifiutare tutto ciò. Oggi insieme dobbiamo rinnovare il nostro impegno per il rispetto reciproco. Qui e ora dobbiamo creare un dialogo globale di intesa e di benessere mondiale. Deve essere basato su delle basi appunto molto forti, perché comunque tutta l'umanità deve condividere questo pensiero, e soprattutto in un mondo di indipendenza. Noi che comunque crediamo in un Dio, deve essere una fonte, una base ancora più radicata. Queste dunque le parole del re di Giordania che commentano l'arrivo del Papa nella sua terra, il viaggio in Terra Santa. Avevamo però annunciato un altro inviato, Stefano Totoro, buongiorno dall'Abruzzo, oggi il bilancio delle case agibili. Buongiorno a voi e ai nostri ascoltatori dall'Aquila. Esattamente oggi il bilancio delle case agibili. Fra poco più di un'ora arriverà il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi per la sua 11ª visita. Il Premier farà un sopralluogo sui luoghi del sisma insieme al capo della Protezione Civile Bertolaso, ma oggi sotto i riflettori c'è ancora il decreto che stanzia i fondi per la ricostruzione. Proprio oggi Berlusconi dovrebbe annunciare la fase 1 della ricostruzione, mentre i cittadini sfollati aspettano delle garanzie per tornare al più presto nelle loro abitazioni. La politica si divide. Ieri il ministro Tremonti ha assicurato che i soldi ci sono, e se ci sarà bisogno di più risorse ci sarà disponibilità per più risorse, dichiarazioni che l'opposizione giudica insufficienti. Ma dall'Aquila stamattina è il capo della Protezione Civile Guido Bertolaso che ha assicurato che il governo garantirà il 100% dell'importo per la ricostruzione, anche se l'importo dovesse superare i 150.000 euro previsti dal decreto ricostruzione, che comunque riguarda soltanto la prima casa. Tutti aspetti che probabilmente chiarirà anche il Presidente del Consiglio nel corso della conferenza stampa che terrà qui nella scuola della Guardia di Finanza di Coppito. Intanto un altro aspetto, quello dell'inchiesta giudiziaria che procede in maniera spedita. Il procuratore Alfredo Rossini ieri davanti ai colleghi dell'ANM ha annunciato di aver individuato chi ha creato i palazzi crollati. Abbiamo i nomi, ha detto Rossini, e presto scopriremo chi di loro ha aiutato il terremoto a creare i morti. Ricordiamo che gli edifici sotto nel mirino della magistratura sono 140. Per il momento è tutto. Grazie a Stefano Totoro. È tutto anche per questa edizione del GR Extra Large. Alessio Maurizio, Anna Migliorati in studio, il coordinamento di Maria Piera Ceci, regia Peter Bescapè. Giornata in evoluzione, come sempre gli aggiornamenti nei nostri GR24 a cominciare già dalle 15. L'appuntamento con Extra Large per lunedì. Buon fine settimana. GR24, il sole 24 ore, direttore Gianfranco Fabi.